Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E benvenuti anche a questa puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, e doppio augurio, buona Pasqua, ma anche buona liberazione di Bologna. Infatti il 21 aprile del 45 gli alleati, coadiuvati dalle bande partigiane, liberavano la nostra città. Quindi una puntata che sta tra il 21 e il 25 aprile e ovviamente parla di antifascismo. Notoriamente il Pioniere, l'abbiamo ripetuto tante volte, ne faceva di questa bandiera una delle sue principali, se non la principale. Il Pioniere non c'è più, non si stampa più, ma drammaticamente il problema del fascismo è rimasto, al punto che oggi come mai c'è preoccupazione di un ritorno di forze avversive al governo. E noi parliamo di antifascismo col linguaggio dei fumetti. Anzi, tramite le tavole di Zero Calcare, che prendono vita in un reading con le voci di Josafat Vagni, Emanuela Fanelli, Michele Bortugno, Chiara Giancardi, Tiziano Scrocca e Giuseppe Zeperagone. Il fumetto, che è diventato reading, si intitola Questa non è una partita a bocce, poi inevitabilmente seguirà il dibattito con lo stesso Zero Calcare, che ci parlerà di come ha vissuto il passaggio da autore underground nei circuiti dei centri sociali a autore venduto nella maggiore libreria italiana con un gran successo, e come per chi sono disegnati i suoi fumetti. Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa far con la maestra, per avere il suo permesso d'assentarsi e andare al cesso. Ora li riconoscete, senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista fa questo saluto qui. Questa non è una partita a bocce. 10 banalità che renderebbero più igienico il dibattito sui nazisti. Qualche settimana fa l'Espresso mi ha chiesto una copertina per un numero in cui si parlava di nazisti. Copertina, ok. Ma non è che volete proprio un fumetto? Guarda sto coglione, se chiama l'accolli da solo. No, è che per una volta che ho una cosa da dire su un argomento, magari faccio la copertina e poi scopro che i contenuti mi fanno schifo, che ne so. Voglio dire, di solito mi chiedono di esprimermi su cose di cui non so un cazzo. Allora, Zero Calcare, parlaci delle periferie. Come concetto assoluto. Ma, oddio, ma che ne so, io conosco una periferia, la mia, cioè Rebibbia. No, parlaci della gentrificazione di Giacarta Ovest. Per questo sembro sempre un fagiano. Allora, cioè, i centri sociali del sud-est asiatico, capito? Nella misura in cui... posso tornare all'appello di luglio, forse è meglio. Il motivo per cui su questo tema ho qualcosa da dire è che sono cresciuto a Roma e nei centri sociali, quindi ho avuto un largo ventaglio di esperienze condivise coi nazisti negli ultimi 20 anni. Ehi, ehi, ehi, scopri tutte le combinazioni possibili! Con le guardie in mezzo! Senza guardie in mezzo! Con il fuorigioco o senza? Ho anche prodotto un sacco di cose a tema negli anni, fumetti, locandine, manifesti... Ad alcuni ci sono pure molto affezionato. Sì, altre erano oggettivamente di cattivo gusto o mezze truculente gratuitamente, però metti pure che avevo 18 anni e mi hanno spaccato la testa a calci in 15 contro uno con trauma cranico, amnesie, denti e mandibola sfondati, ci può stare che uno stava un po' incazzato. Sulla base di questa profonda esperienza accademica mi premeva elargire 10 banalità che renderebbero più igienico il dibattito sui nazisti. 1. Nota metodologica numero 1. Perché li chiamo nazisti? Ecco, infatti, perché? Noi mica abbiamo mai detto di essere nazisti. Noi siamo fascisti. Guarda come parte la querela, eh? Querela netta degli gay. Perché questa distinzione, nella maggior parte del neofascismo italiano, è una paraculata maledetta e basta. Lo sanno che se dici che sei nazista, i sinceri democratici sbroccano. Oddio, arrestatelo, fustigatelo, impiccatelo a Norimberga! Mentre se dici che sei fascista, ormai non gliene frega un cazzo più a nessuno. Ma sì, in famiglia sono tutti un po' strani, c'ho un cugino fascista, l'altro è celiaco. La figlia di mia cugina fa delle bellissime sculture con l'adipe di cane, le puoi vedere? Ha un blog. Dopodiché, oh, se pensi che nella seconda guerra mondiale era meglio se vinceva l'asse, per me sei nazista, che cazzo? Cioè, è come se uno dicesse così. Guarda, io nei Pokémon tifo solo per Pikachu. Ash invece mi fa schifo, lo odio. Cioè, l'unico errore di Pikachu furono le leggi razziali contro i Bulbasaur negri, ma insomma. Capisci? Non puoi essere per Pikachu e contro Ash. Ash è il padrone di Pikachu. Quell'immonda bestia gialla non fa un cazzo se non glielo dice Ash. Mi rendo conto che nel dibattito storiografico possono starci delle sfumature, ma il livello di cui parliamo è circa questo, eh. Mussolini, ciù! Scelgo te! Entra in guerra, dai! Fai il tuo nashak come contro l'Etiopia! E dai, poche pippa! Fammi almeno uno stato fantoccio a Salò! Nota metodologica numero 2. Perché non cito le singole organizzazioni col loro nome? Perché credo che il loro brand abbia già abbastanza visibilità senza che li mettiamo pure in un fumetto. Ho deciso perciò di mostrarli attraverso una raffinata metafora. Ecco, d'ora in poi i nazisti saranno quindi rappresentati come personaggi della Fabbrica dei Mostri. La Fabbrica dei Mostri ha aperto giù in città! Noto giocattolo Sola che ha illuso migliaia di ragazzini negli anni 90. Nella pubblicità sembrava una ficata col bambino che infornava questi stampini con decine di mostri. Con quel liquido misterioso. E ne uscivano queste creature fichissime, colorate e paurose. Terrore, raccapriccio, sono una scolopente della morte. E invece non era vero un cazzo, ne potevi infornare solo 4 per volta, ci mettevano 200 anni a cuocersi e uscivano aborti brutti e storti. Dai, ma che è sto merda, un tagliaforbici storpio? Ma davvero ho chiesto a Babbo Natale sta zozzata invece del Nintendo? Oggi, terzo mese del primo anno del regno di Nostro Signore Jurassic Park, io imparo questa lezione, mai più nella vita crederò alla spifida pubblicità. Ecco, quella lezione vale un sacco. Pure con le formazioni neofasciste. Quella lezione è importante per arrivare alla terza banalità. 3. Militanti di organizzazioni neofasciste diversi da barbarie trasversale diffusa in questo paese. Oh, non è che so cieco, eh. È innegabile che in Italia ci sia un diffuso sentimento xenofobo che riguarda un sacco di persone in maniera trasversale. C'è una cosa pure irrazionale, piena di contraddizioni. Allora, io sono di sinistra, va bene? Ma non possono portare tutti quei negri in questo quartiere. 36 negri su un territorio di 110.000 abitanti è follia. Significa scurire dello 0,032% l'impatto cromatico dell'ambiente. Mio marito così si intristisce, è cromopatico. Però ecco, è un fenomeno complicato che non si può spiegare con le 10 banalità di sto fumetto. Servirebbe uno più sveglio di me. Cercare di raccontare di interi territori e pezzi di società abbandonati a se stessi, in cui ci si addentra solo nei giorni dello zoo safari elettorale. E vedete, lì ci sono i loschi popolari selvatici nelle cui cavità abita una fauna spesso dedita ad attività delittuose. Non li tirate a mangiare se no si accollano, eh? Poi coi canali dei vecchi che mandano tutta roba così. Signorina Pina, vuole raccontarci che succede qui da quando hanno aperto lo SPRAR? Negri, decreto di espulsione o paletto di frassi, no? Mostri i segni dei morsi sul collo, su! Diciamo che se alla gente per tutta l'estate gli fai sta cura, Ludovico... Ci vadano! Ci stuprano! Gli annecci criminali aiutano! Aiutarli sì, ma a casa loro, aiutarli a levarsi dal cazzo! E poi te ne esci un giorno! Però siccome siamo buoni, ora gli diamo le ville confiscate alla mafia! Cioè, lo dici, eh? Non lo fai. Per te, che succede? Spoiler, i pogrom. Ma questo fenomeno, per fortuna, è ancora molto distinto dalle formazioni neofasciste organizzate. Che se tutte queste persone fossero militanti nazisti, i cortei sarebbero così. Attenzione, sostituire jingle con inno nazista. La Fabbrica dei Mostri ha aperto giù in città. Me ne frega! Sì! Invece no. La realtà continua a essere questa. Regà, lì c'è stato uno scippo! Andiamo a provare a sciacallare un po'. Portiamoci 19 bandiere a testa, così sembriamo di più. E allora perché dai media sembrano sempre tantissimi? Perché 4 Bisognerebbe raccontarli e non lasciare che si raccontino da soli. Non potete fare dei talk show che sembrano il loro profilo su Tinder. Ragazzi, studio con noi, avete 12 minuti per dire tutto quello che volete in spregio a qualsiasi aderenza alla realtà. Allora, siamo belli, ci piace lo sport, i gattini, sì, la natura, la pace nel mondo per gli italiani. Possiamo farla sovraesposta così non si vede la pappagorgia, Duce? Io capisco il principio, ma sta cosa con loro non funziona, regà. Per un motivo semplice, questi sono falsi come un gesuita. Attenzione, espressione tipica romana di cui ignoro l'origine. Aiutateci, amici gesuiti. Tutta la loro narrazione è falsa. Falsa come i miei incisivi di resina, falsa come un baiocco papale. Cioè, che interesse può avere per me sentire uno in TV che dice ste cose? Ok, sì, siamo fascisti, ma col nazismo non c'entriamo nulla. Sono due fenomeni ben distinti, non mischiamo le mele e le pere. Quando poi ai loro concerti suonano gruppi che cantano l'eroismo dei nazisti. Nelle loro librerie si spingono testi apologetici dell'SS. I loro riferimenti storici sono tutti relativi a quel contesto. Oh, mo non è che io dico che bisogna far finta che non esistono così spariscono. Da ragazzino forse, ma perché ero un coglione. Calcare, io ti vedo anche se ti copri gli occhi. Non è un nascondiglio. Domani facciamo un test neurologico a papà. Mi ha trovato ancora una volta, fottuto segugio. Però ecco, un conto è parlarne con gli strumenti dell'inchiesta giornalistica. Non serve manco essere sagaci come Detective Conan, eh? Dicono di rifiutare la violenza, ma ogni mese se li bevono per qualche pestaggio. C'è qualcosa che stona, ma cosa? Qui gatta si cova. E ogni tanto è stato fatto pure bene, anche dalle pagine di questo giornale talvolta. Un altro conto è farlo scambiandosi gli inviti a merenda come alle medie. Allora tu vieni a fare un incontro da noi, mamma compra la Coca-Cola e le puff, poi noi veniamo in trasmissione da voi. Ok, ma portate il Super Nintendo, eh? Ok, sento odore di Pulitzer. Il fiorire di queste iniziative miste tra personaggi noti e nazisti ci introduce alla quinta banalità. 5. Quando andate a fare le cose coi nazisti, servono solo ai nazisti. Lo so che pensate che loro vi chiamano a parlare perché vi rispettano e vi riconoscono una grande professionalità. Anche se la pensi diversamente da noi, ci fa piacere invitarti per un confronto. Sai che stimiamo il tuo lavoro, la tua indipendenza, il tuo coraggio. Non è vero un cazzo. Vi invitano solo perché così quando qualcuno prova a dire che le loro manifestazioni naziste sono un problema, loro possono rispondere così. Sono noi i cattivi, gli antidemocratici, non ci voglio lasciare parlare a noi. A noi? Non ce la... chi siamo noi buoni e parliamo con tutti. Guardate, abbiamo invitato pure dopo Gigio a parlare con noi. Chiedetegli come si è trovato, si è bagnato mezzo frigo, ci sua. Lo so che ferisce il vostro ego, ma qualcuno ve lo doveva dire. Stateci. Inoltre, questa normalizzazione dei rapporti con i nazisti furbi è complementare alle grandi ondate di indignazione verso i nazisti meno furbi. E così arriviamo a bomba sulla banalità numero 6. 6. È molto ipocrita indignarsi solo di fronte al freak show. L'unico momento in cui il sistema mediatico e politico va in tilt è quando entrano in scena i fenomeni da baraccone folcloristici. Sì, tipo quelli rasati col bomber nero e 800 rune tatuate sul gozzo. Bla bla bla, invasione, bla bla bla, sostituzione etnica, bla bla bla. Attenzione, discorso nazista standard. Ultimi romantici avanzi degli anni 90. O quelli che fanno le figurine con la faccia di Anna Frank. E da oggi ancora più offensive. Che attacca la faccia di Anna su 100 corpi diversi. Praticamente in questo paese l'unico requisito per essere trattato da fascista è che devi essere un caso semipsichiatrico che sventola antisemitismo per attirare l'attenzione. Mamma guarda, mi tuffo, mamma mi guardi, mi sto per tuffare, mamma guarda, mi tuffo a forma di svastica, Duce. E quelli ok? Indignazione generale, levata di scudi, in galera e buttare la chiave. Se invece sei poco più scafato e capace di intendere e di volere tanto da metterti una camicia e tagliarti anche i capelli senza il rasoio elettrico, allora puoi stare nella dialettica democratica. Oh là là, ma che bei baffetti da hipster! Tu sì che hai superato il 900, très joli. bla bla bla, invasione, bla bla bla, sostituzione etnica. Attenzione, stesso discorso nazista standard di prima. Certo, poi magari fai parte di quelle organizzazioni che impediscono l'assegnazione delle case popolari ai cittadini italiani di origine straniera, picchettando gli appartamenti. Le case popolari prima agli italiani. Ma la signora qui ha cittadinanza italiana. È negra, quindi non può essere italiana, le due condizioni si autoescludono, la materia non può essere liquida e gassosa allo stesso tempo, magari in polvere. Oppure che gonfiano sistematicamente di botte i bengalesi sulla Prenestina, per dire. Ecco, tutte queste cose non emergono mai nelle cronache nazionali, al limite se ne parla un po' nelle edizioni locali. Ma non stanno mai al centro di nessun tipo di riflessione collettiva. Cioè, non è nemmeno abbastanza per toglierli dal novero degli interlocutori. Ma cazzo, è maleducazione parlare di negri pestati con questi qua, dai, con tutti gli argomenti possibili, baffi, camicie, architettura degli interni, duce. Oh, io non sottovaluto quanto fa schifo insultare Anna Frank. È una violenza alla memoria di una ragazzina massacrata e di altri 6 milioni di morti. Mi fa venire il sangue agli occhi. Però ecco, continuo a pensare che se questo ci impedisce di sentire il male che subiscono i vivi, forse non la stiamo usando bene sta memoria. Me ne frego! Sì! Perché è vero, non sono tanti. Ma non occorre essere in tanti per fare molto male nell'esistenza delle singole persone, in piccolo. Bastano pure pochi tagliaforbici storti. Ok, e come siamo arrivati a questo punto? Forse perché negli anni non ci siamo ripetuti abbastanza la settima banalità. 7. Non è tutto uguale a tutto. Sono 15 anni che in nome della pacificazione nazionale si mette in discussione l'idea stessa che ci fosse un campo giusto e uno sbagliato. Un grave errore sarebbe generalizzare dicendo che i partigiani erano buoni, i fascisti cattivi. Io conosco partigiani che scorreggiavano sistematicamente in ascensore e mangiavano solo che babbe dei topi morti apposta. Mentre io qui la testimonianza di un fascista che una volta ha tenuto il cancello aperto a mia madre che stava coi pacchi della spesa. E voi chi vorreste come vicino di casa? Ma facciamoci una fiction! Questa ideologia dell'equidistanza per anni a Roma ha impedito pure che le aggressioni fasciste si chiamassero col loro nome. Due ragazzi coi dread sono stati circondati e pestati fuori da un locale. Ma non mi pare ci sia un movente politico. Trattasi di banale rissa tra balordi, futili motivi. A meno che non sia per motivi di fregna, ma ancora non si sa bene. Tra il 2003 e il 2007 a Roma, mentre avveniva uno stillicidio di aggressioni, accoltellamenti e pestaggi, alle organizzazioni neofasciste venivano concessi assegnati spazi dalle istituzioni. Settimana scorsa abbiamo dato un locale a questi che fanno il dopo scuola ai sordomuti. Ora, con che cuore ne diamo uno spazietto pure ai nazisti? E dai, non mi fate scegliere fra i nazisti e i sordomuti, Come quando ti chiedono se vuoi buttare giù dalla torre, mamma o papà, è una cattiveria. Che poi questi sono gli stessi che oggi, 10 anni dopo, chiamano alla mobilitazione antifascista. Ma vabbè, uno non può cappare con rancore degli errori passati, ok? Però a questo punto toccherebbe capire cosa fare oggi. 8. Intanto trattare la questione con fermezza e senso della misura. Sono anni che qualcuno prova a dire che i neofascisti sono un problema. Guardate, non sono tanti, ma sono pericolosi. La cosa va affrontata senza nascondere la testa sotto la sabbia. E sono anni che gli si risponde così. Sveglia, pazzi, il fascismo è finito! E dai, uscite dalla giungla, ultimi giapponesi! Dove l'avete vista ste cose? Su Telemonte Carlo! Adesso quelli dicono ancora le stesse cose. Guardate, non sono tanti, ma sono pericolosi. La cosa va affrontata senza nascondere la testa sotto la sabbia. Però gli si risponde così. Ma affrontare cosa? Siamo un passo dal regime! Correre in montagna subito! A Ostia stanno architettando i carri piombati! Facciamo saltare i ponti e isoliamo il litorale romano prima che si diffonda! 9. E ricordare che ai nazisti si può resistere. Non dico dal punto di vista giudiziario che a me la galera non mi piace chiederla per nessuno, pure perché non ho mai visto uno uscire di galera meglio di come c'era entrato. Mi pare pure irreale pensare di risolvere questioni culturali dentro a un tribunale. Io dico proprio le persone normali, tutte. Senza bisogno di essere i guerrieri della notte o i giustiziari mascherati, la gente più diversa si è opposta ai nazisti in molti modi in questi anni. Certo, hanno avuto molti meno spazi e li hanno intervistati molto di meno. Ma sono persone che negli anni si sono messe in gioco, a volte con più intelligenza, altre meno, riuscendo o sbagliando, ma pagando sempre in prima persona. In termini di minacce, di aggressioni o di denunce. senza cercare qualcosa da mettersi in saccoccia attorno a conti elettorali. Forse quando si parla di nazisti si può chiedere anche a loro di intervenire in questo dibattito. Forse sono quelli che in mezzo a tutte ste civetterie e indignazioni a targhe alterne possono ricordare i nomi e le storie di chi è stato ammazzato dai militanti neofascisti o da chi proveniva da ambienti direttamente limitrofi dal 2003 ad oggi. Davide Cesare, ucciso a coltellate a Milano nel 2003. Renato Biagetti, ucciso a coltellata a Focene nel 2006. Nicola Tommasoli, pestato a morte a Verona nel 2008. Sam Modù, ucciso a colpi di pistola a Firenze nel 2011. Diop Mor, ucciso a colpi di pistola a Firenze nel 2011. Emmanuel C.D. Namdi, pestato a morte a Fermo nel 2016. Per cui sì, va bene parlarne, ragionare insieme e confrontarci, ma magari non come se commentassimo al bar i risultati di una partita a bocce. Perché questa non è una partita a bocce. Se non li conoscete è norma elementare guardare la maniera con cui sanno marciare. Le ginocchia non piegate vanno al passo tutti quanti. Chi sta dietro dà pedate nel sedere a chi sta avanti. Chi le piglia senza darle è chi marcia in prima fila. Chi le dà senza pigliarle siano in 10 o in 10.000. È chi un po' meno babbeo sta alla coda del corteo. Ora li riconoscete senza dubbia prima vista. Ora la parola va a Vero Calcare. Marcia in questo modo qui. Il circuito mainstream gli ha permesso di parlare con un pubblico che va molto al di là di quello che c'è oggi in questa sala, e che è, diciamo, il circuito dei compagni, che ai noi insomma si riduce ogni anno, insomma, sempre di più sostanzialmente, a parlare a un pubblico anche di giovani e giovanissimi, magari più in linea o in sintonia con il mezzo di comunicazione scelto da Michele per esprimersi, cioè quello del fumetto. E vorrei provare a chiedervi quindi qual è stato il riscontro rispetto a una presa di posizione così comunque netta come quella avuta nei confronti rispetto al fascismo, rispetto alla quella che era stata definita l'insorgenza neofascista, o comunque l'attenzione la presa di posizione appunto rispetto a questo fenomeno. Sicuramente all'inizio io me la sono vissuta con un sacco di ansia, il fatto di cercare, perché quando io ho cominciato a fare fumetti in qualche modo sono cominciato a uscire fuori dal circuito nostro. Inizialmente le cose che hanno funzionato, che hanno avuto successo, non c'avevano, erano molto blandamente politiche, in realtà a volte non lo erano per niente, si parlava del piumino, del proprio piumino, eccetera. E questa, il fatto di essere praticamente schizofrenico a un certo punto, nel senso che c'era una produzione, io continuavo a fare per quelli che erano i circuiti nostri, dei centri sociali, degli spazi occupati, e poi quella che invece finiva in libreria, che viaggiavano parallele, e mi sono sempre chiesto nel momento in cui queste cose si fossero unite quanto avrebbe fatto crollare tutto il castello questa cosa. E nell'andare avanti col tempo un po' le due strade si sono incrociate un po' di volte fino a diventare quasi una cosa unica, e questo era uno degli esempi più chiari, nel senso che poi io ho avuto in qualche modo il mio pubblico l'ho anche abituato poco a poco a questa cosa, nel senso che man mano tutta una serie di persone si sono autoscremate. Probabilmente all'inizio, quando usciva fuori un riferimento sul G8 di Genova, c'avevi quelli che comunque te cagavano il cazzo su Carlo Giuliani, a un certo punto man mano andando avanti, a forza di infilarlo in ogni libro, la gente ha smesso di scrivermi se tu proprio pensi che Carlo Giuliani doveva morire, o se ti vuoi continuare a leggere i miei fumetti comunque non mi scrivi più, o comunque hai smesso di leggermi. Quindi questa cosa è andata in questa maniera. E poi quando c'è stato questo fumetto qua sull'Espresso, su cui ho fatto pure un ragionamento, nel senso che non è che vado a pubblicare solitamente sull'Espresso come mio mezzo di lezione preferito. Il ragionamento che ci ho provato a fare era che se mi avessero, cioè loro mi hanno chiesto di fare una cosa qualsiasi, sostanzialmente fosse anche la storia del piumino e del copripiumino, però l'idea mia è che se usavo quello strumento là, quel pubblico lì, eccetera, aveva senso provare a fare un ragionamento che riguardasse un po' quelli che erano magari i lettori dell'Espresso, ma i giornalisti stessi, quei giornalisti mainstream che in quella stagione là, parliamo di poco prima delle elezioni, comunque stavano facendo tutta questa questa attenzione, stavano montando questa tensione intorno ai nazisti, però in una maniera di partecipazione, quindi poi si entusiasma. Giovani generazioni che, sì, è vero, sicuramente hanno, diciamo così, più dimestichezza con forme più smart di comunicazione, più effimere come quello dei social, eccetera, però sicuramente hanno, è molto più facile intercettarli con quel tipo di comunicazione che non magari col tomo de Marx o de Engels o de Lenin pesantissimo ideologico, che rischia di risultare abbastanza indigesto per un sedicenne e un diciassettenne sostanzialmente. Cioè, nel senso, pensi che diciamo così, te la senti sta responsabilità in qualche modo, o pensi che questa cosa non abbia, non svolga, non possa svolgere questo tipo di funzione negli anni a venire sostanzialmente? Io me la sento un botto, dopodiché non penso che, nel senso che, ma perché sono matto io, perché poi effettivamente non me la sento, cioè questo fumetto io non penso che alle case popolari delle Bibbia si siano comprati in massa l'Espresso e abbiano letto questo fumetto qua, quindi non sempre lo faccio pensando a quello. In generale penso che chi fa il lavoro mio e questa questione se la deve porre un botto, non necessariamente nei termini dei dover, perché poi non è che io penso che tutti quelli che fanno i fumetti o che raccontano storie devono per forza averci l'obiettivo di cambiare il mondo o di in qualche modo migliorarlo, però dovrebbero averci quantomeno l'obiettivo di non peggiorarlo e di non fai danni, quindi è qualcosa che secondo me uno ci dovrebbe sempre pensare, almeno sui linguaggi che usa, su come costruisce le storie, anche sugli stereotipi che usa per fare i fumetti, queste cose qua, perché in verità comunque sia è qualcosa che entra nell'immaginario comune, è qualcosa che comunque è mattoncino all'interno del dibattito culturale, per qualsiasi cosa significhi, ma comunque dell'immaginario collettivo della società, di questo paese, eccetera. E quindi farlo, se tu fai sto lavoro, lo devi fare con la consapevolezza che stai mettendo un mattone in quel senso, e quindi a queste cose uno ci deve stare attento, quantomeno per non alimentare tutto quello che so in termini di stereotipi, ma di genere, di classe, di razza e quant'altro. Quindi secondo me è un ragionamento che va proprio fatto, e che cioè, anche se uno non è né militante né politicizzato, se fa sto lavoro lo deve fare, o se no non dovrebbe fare sto lavoro. E poi quanto questa roba effettivamente poi incida su tutti quei ragionamenti, secondo me coi fumetti purtroppo incide poco, ma perché penso che i fumetti non si legge più tanta gente, nel senso che io sono stato a fare un workshop all'artistico di Cinecittà, che comunque è l'artistico, quindi ci stanno in teoria gente che è pure un po' più portata a questo tipo di forma di espressione. Abbiamo chiesto, ci stavano 80 persone, 80 ragazzini, per alzare di mano quanti di voi si leggono i fumetti, hanno alzato la mano tra i 7 e le 8 persone, che quindi questo è il polso di quanto poi effettivamente questa roba non so sicuro che funzioni così tanto. Ci so de questa roba che tu dicevi degli strumenti, dei social, eccetera, però sicuramente invece conta quanto riesci a contaminare anche con i tuoi linguaggi e con le tue narrazioni quel tipo di strumenti là. Io mi rendo conto che se io pubblico, se io faccio un libro, se pubblico una cosa sull'Espresso, se la leggeranno un tot di persone che sono probabilmente quelle che si comprano quel giornale di solito, più qualcuno che magari sta in fissa o qualcosa così, ma perché magari io in quel momento volevo parlare con quel tipo di interlocutore là. Però se tu, ma anche se pubblico un libro, probabilmente chi se lo compra è comunque un certo tipo di pubblico, eccetera. Se tu fai il blog e te lo spingi su Facebook, su Instagram, eccetera, c'hai tutta un'altra serie di persone molto più giovani e sicuramente molto meno abituate a leggere fumetti, che si trovano le cose tue in mano, e sta roba è effettivamente ti apre proprio degli altri spazi di interlocuzione a cui uno non pensa mai. Io penso che uno degli strumenti principe per questa cosa, per cui secondo me loro sono quelli che ci dovrebbero riflettere tanto, è la musica, nel senso che in questo momento la musica sui gruppetti pischelli, che fanno pure i pischelli che fanno trap, che ovviamente è quanto di più lontano al mondo da mia formazione musicale, però se tu vedi le visualizzazioni che hanno i pischelli pure delle borgate romane, pischelli dei 15 ma o massimo 20 anni, che fanno questi gruppetti così, e che comunque hanno un sacco di seguito, quella roba là parla un sacco di persone, e se quella roba là viene fatta con la riproposizione del mito del fatto che io ci sordi quella una zoccola, produce un certo tipo di immaginario, se fatta con una consapevolezza diversa, secondo me quella roba là può incidere tantissimo. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà